sei buono e ti tirano le pietre, sei cattivo e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, tu sempre pietre in faccia prenderai. Tu sei ricco e ti tirano le pietre, non sei ricco e ti tirano le pietre. Al mondo non c'è mai qualcosa che gli va, e pietre prenderai senza pietà. Così sarà finché vivrai, sarà così. Se lavori ti tirano le pietre, non fai niente e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, capire tu non puoi, se bene o male quello che tu fai. Tu sei bello e ti tirano le pietre, tu sei brutto e ti tirano le pietre. E il giorno che vorrai difenderti vedrai, che tante pietre in faccia prenderai. Così sarà finché vivrai, sarà così. Così sarà.